Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Cari radioascoltatori, buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Da oggi fino al termine della settimana Lamezia Terme inizia e si dà il via al primo Festival dei libri di inchiesta sulle mafie, Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra, Sacra Corona Unita, insomma su tutte le mafie che inquinano il nostro territorio. È un'iniziativa che è curata dall'amico e collega Lirio Abbate dell'Espresso, che personalmente colgo anche l'occasione per ringraziarlo per l'invito che mi ha fatto. Io purtroppo in questi giorni non potrò essere presente a Lamezia, ma ci siamo con Radio 24 con questa trasmissione lungo l'arco di tutta la manifestazione, con diversi interventi nelle trasmissioni nel palinsesto di Radio 24. Lamezia Terme in questo momento sta vivendo un periodo molto molto difficile, molto molto complesso. Purtroppo, ahimè, si contano di nuovo i morti di mafia per le strade. Il comune, l'assessore alla legalità Tano Grasso sono impegnatissimi nel continuare su questo cammino di legalità. Hanno fatto anche diversi attacchi, soprattutto Tano Grasso, all'omertà di questa borghesia mafiosa che in una città come Lamezia Terme è potentissima. Ma devo dire, lasciatemelo dire, perché è stato già nostro ospite, molto, moltissimo, non dico tutto, ma molto ruota intorno alla procura, intorno alla figura di un procuratore capo che si chiama Salvatore Vitello, che è veramente, come dire, un magistrato di una pasta così dura che anche per i denti dei mafiosi è molto molto difficile azzannarlo. La procura è ovviamente un punto sensibilissimo ed è per questo che ci piace avere con noi oggi proprio il procuratore capo di Lamezia Terme, Salvatore Vitello. Buongiorno Vitello. Buongiorno, buongiorno Roberto. Allora, noi spesso l'abbiamo avuto nostro ospite, fuori onda lei mi stava spiegando una cosa molto interessante, devo dire straordinaria. Ad un messaggio mafioso noi rispondiamo con un messaggio di legalità: tu uccidi e io ti metto in difficoltà, tu uccidi e io ti abbatto gli immobili. Racconti un po' questa filosofia, procuratore capo. Ma noi prendiamo atto di questa realtà, è una realtà difficile, fatta di una, diciamo, incidenza mafiosa notevole, notevolissima, anche se da parte, come dire, dalla popolazione si cerca in qualche modo a rimuoverla, ma non si può rimuovere perché i morti sono, diciamo, chiari e parlano, e alcuni morti sono di chiaro stampo mafioso. Qual è la reazione delle istituzioni? Vi è una reazione, come dire, investigativa che deve essere forte ed efficace, e si sta facendo, ma vi è anche una reazione che riguarda la popolazione. La popolazione, dobbiamo dimostrare che nel momento in cui l'illegalità raggiunge questo apice di violenza, che è l'attentato alla vita, le istituzioni reagiscono, e reagiscono con una forte affermazione di legalità. Gli interventi che abbiamo fatto sono in materia di demolizione di costruzioni abusive. Allora, nella programmazione delle demolizioni di costruzioni abusive è diciamo una scelta che spetta alla Procura della Repubblica: si andranno a toccare prioritariamente coloro i quali risultano, perché già condannati o comunque perché coinvolti in vicende mafiose, risultano appartenere a famiglie mafiose. Benissimo. Questo è il segnale. Procuratore, lei alcuni mesi fa, parlando tra di noi per altre questioni, parlò di una società lametina molto coinvolta nelle vicende mafiose. Si spinse a dire che per un modo o per un altro un abitante di Lamezia su quattro, mi corregga se sbaglio, comunque aveva a che fare con la mafia. È una situazione che lei conferma? Guardi, confermo e spiego meglio in questi termini. Stiamo assistendo da aprile ad oggi a una recrudescenza criminale notevole. I danneggiamenti a esercizi commerciali, gli attentati intimidatori sono all'ordine del giorno. In sostanza in media ne abbiamo uno o due al giorno. Questo significa che vi è una, diciamo, una conflittualità interna alle famiglie mafiose e una, diciamo, un tentativo di riassetto di accordi precedenti. Certo. Se c'è quindi questa situazione che si rivolge all'attività commerciale, agli imprenditori, a fronte di ciò abbiamo un numero, direi quasi inesistente, di denunce per estorsioni o ancora ancora, perché collegato al fenomeno dell'estorsione c'è pure l'usura, o di denunce per usura che in pratica sono, non esistono, di iniziative, le dobbiamo andare noi a individuare quando facciamo l'attività di indagine, e quindi si scopre dall'intercettazione che uno è sotto usura e sotto estorsione. Certo, certo. In alcuni casi gli imprenditori che sono sotto estorsione e che noi veniamo a sapere per via dell'attività di indagine negano l'evidenza. Quindi l'intimidazione è forte, e questo già è una spiegazione, ma vi è anche un'altra spiegazione, che vi è in alcuni casi alcuni imprenditori fanno affari con i mafiosi. Ah certo, recentemente voi circa 7-8 mesi fa avete fatto anche una enorme operazione di sequestro di beni a famiglie imprenditoriali vicino alle mafie, o sbaglio? Infatti, esatto. Abbiamo applicato una norma che è il sequestro di beni, abbiamo sequestrato società che erano in capo a prestanomi, gente, come dire, pulita. Certo, è il concetto, certo, che voglio farci capire. Certo. Allora io ringrazio il procuratore capo della Lamezia Terme, Salvatore Vitello, per il suo intervento. Dico grazie in regia Paolo Corleoni e in studio Laura Fagin e Roberto Calullo. Vi auguro una buona giornata.